se avessimo dovuto presentare il nostro rapporto delle povertà 2019, così come l'Istat, avremmo detto che le persone che facevano riferimento ai nostri servizi erano diminuiti. Poi è arrivato questo microscopico virus che ci ha messo di fronte veramente alla nostra fragilità. Tutte quelle persone che non venivano più, non facevano più riferimento al mondo Caritas, in poco tempo ce le siamo ritrovate. Erano persone che da diversi anni non venivano e che avevano costruito dei micro equilibri quando il virus, con le chiusure, ha impedito questi lavori precari, qualche volta lavori in nero, ha immediatamente portato le persone a dover tornare a bussare le nostre porte, ma soprattutto ha portato nuove persone a bussare le nostre porte. Se penso alla Caritas di Rimini, su 10 persone che sono venute, 3 erano sconosciute sia alla Caritas ma anche al mondo dei comuni, delle istituzioni. Venire a bussare alla porta della Caritas vuol dire ammettere povertà. Lo stigma sociale di bussare alla porta della Caritas è uno stigma sociale molto grande. La domanda che ci facciamo è: rispetto a queste 3 persone che hanno avuto il coraggio di bussare alla porta, quante sono quelle persone che non hanno questo coraggio? E su questo devo dire, la cosa che si sperimenta nei momenti di difficoltà e di crisi è la bellezza del lavorare insieme. La situazione, come vi potete immaginare, anche per noi è improvvisamente cambiata a inizio marzo di quest'anno, con lo scoppio della pandemia e con la successiva quarantena decretata dal governo. Abbiamo nel giro di una settimana triplicato i nuclei che andavamo ad assistere. Siamo arrivati ad assistere quasi 500 nuclei per più di 2500 persone nel momento più critico. Parallelamente abbiamo dovuto da un lato modificare le forme di assistenza alle famiglie, nel senso che le norme sanitarie ci obbligavano a non poter più fare un accesso libero alle famiglie negli empori, ma a dover confezionare pacchi alimentari. In più abbiamo dovuto cercare in tutti i modi di integrare il numero dei nostri volontari. In questo abbiamo trovato nella comunità bolognese una risorsa meravigliosa. Abbiamo nel giro di qualche settimana avuto decine di volontari che sono venuti ad aiutarci nel confezionamento dei nostri pacchi alimentari che distribuivamo alle famiglie. La situazione sta continuando ad essere critica, nonostante adesso le misure di contenimento siano un po' più blande che la primavera scorsa. I numeri delle famiglie che stiamo assistendo sono sostanzialmente gli stessi. Erano calati leggermente al ritorno dall'estate, anche perché chiaramente si erano riavviate tante attività economiche. Chiaramente, appena la situazione è tornata a peggiorare, abbiamo notato che abbiamo avuto parecchie richieste